Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. L'Italia, passata di emergenza in emergenza, ha negli anni affossato lo Stato di diritto. Lungi da me voler difendere Battisti, ma qualsiasi paese democratico, in caso di estradizione, dovesse valutare quelle che sono state le condanne italiane, non potrebbe quasi mai concedere l'estradizione. Condanne per chiamate di correo de relato, senza riscontri oggettivi e cose di questo genere. Invito a considerare questo aspetto. E la mia storia di ex maresciallo dei Carabinieri non mi può far certo ritenere un simpatizzante di terroristi. Giovanni Battista. Egregi politici, pur essendo dalla parte delle vittime di questo indegno italiano di nome Battisti, cerco di guardare il caso da un altro punto di vista. Se Battisti era anche un terrorista e non solo un criminale, significa che amava il suo paese, anche se a modo suo, e del tutto fuori dalle regole basi della giustizia e libertà. Con questo principio dobbiamo continuare la vita. Se entra in Italia, finisce in galera a vita. Se a qualche altro paese fa piacere tenerselo, in questo caso il Brasile, non è più un nostro problema. Non vedo come si possa dare tanta attenzione ad un criminale come stiamo facendo, addirittura entrando in cricca col Brasile. Che importanza volete dare al criminale? Oppure volete elevarlo a vittima? Quanti soldi sono già stati spesi a causa di questo criminale? Ma quanti ne volete spendere ancora? Stefano. Negata estradizione del terrorista Battisti. Il richiamo dell'ambasciatore è una cavolata colossale. Quanti interessi economici ha l'Italia con il Brasile? E allora perché non abbiamo fatto lo stesso con il gigante economico Cina, che mette a morte migliaia di persone spesso dopo processi sommari? E allora la Francia, dove Battisti è vissuto finora indisturbato e dove anche Sarkozy parteggia per lui? Mario. Proprio non capisco l'ostinazione per far morire Eluana. Una persona fa sempre in tempo a morire. E qualsiasi barlume di vita è sempre infinitamente meglio di niente. Io, quando ero piccolo, avevo un fratello che si chiamava Gilberto. Si era ammalato di paralisi progressiva, era ridotto a una larva. Magrissimo e pallido. Anche peggio di Eluana. Infatti Eluana almeno è calma. Invece Gilberto passava il tempo a tremare. Certe volte, quando la mamma gli metteva il bicchiere alla bocca per farlo bere, lui spezzava il bicchiere in bocca e tutti accorrevamo per impedire che deglutisse i frammenti. Nonostante questo, nessuno voleva la sua morte. E quando è morto, tutti hanno pianto e nessuno è stato contento o sollevato. Altro che liberazione. E se potessi avere ancora Gilberto, pure sdraiato nel letto a tremare tutto il tempo, darei tutto quello che ho per averlo ancora vicino. Angelo. Strade in diretta. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. In primo piano la nebbia che in queste prime ore del mattino riduce la visibilità al nord sulle pianure del Veneto, al centro in Toscana sulla 15 della Cisa tra Pontremoli e l'innesto con la 12 e sull'autosole tra Firenze e Arezzo. Nebbia anche sul tratto abruzzese della 25 Roma-Pescara tra Aielli, Celano e Cocullo. Piove al sud, soprattutto tra Campania e Puglia, mentre nel corso della giornata sono previste nevicate sparse al nord, sui settori occidentali, Trentino Alto Adige e Veneto. Le nevicate saranno più forti su Valle d'Aosta e vallate alpine piemontesi, fino in pianura ma deboli su Piemonte e Lombardia. Infine, a chi viaggia in treno, ricordiamo lo sciopero di oggi del personale delle Ferrovie dello Stato, possibili ritardi e cancellazioni per 8 ore, dalle 9 alle 17. È tutto, noi torniamo tra circa mezz'ora. Credo che un plauso lo si debba unitamente al nuovo vento di speranza che sembra aleggiare dalle prime parole del 44esimo presidente USA. Ricorda molto John Kennedy, il nostro Barack, per la determinazione, la chiarezza e la capacità di saper coinvolgere nella visione di un futuro migliore, sano, realistico, possibile, per tutti. Un discorso che vedo di esempio soprattutto avverso la spesso cinica ed irresponsabile e menzognera dialettica di tanti... Un discorso che vedo di esempio soprattutto verso la spesso cinica ed irresponsabile e menzognera dialettica di tanti politici, dei nostri in maniera particolare, dove si osa quel che lo stesso pontefice mille volte tace. Parole che raggiungono il cuore delle genti e stimolano il sano orgoglio delle nazioni. Un richiamo vibrato alla giustizia, che non raggiunge solo il popolo americano, ma suscita l'attenzione e le attese di tutti i concittadini di questo pianeta. La forte crisi dell'economia, colpa della grande irresponsabilità di alcuni. Lo raccomanderei alle tante lobby finanziari che pascolano disinvolte negli ambienti di governo. Non proteggeremo gli interessi di pochi, a coloro che della politica e nella politica hanno costruito i loro imperi di potere. Metteremo la scienza al suo giusto posto. Mi è quasi familiare, contro il prepotente cinismo dell'asservimento di questa ai desideri del profitto di multinazionali e corporation, piuttosto che ai generali benefici per i popoli. Incanaleremo il sole e il vento, diminuiremo la minaccia nucleare, allontaneremo lo spettro di un riscaldamento planetario. Ai tanti paladini del nucleare e delle guerre stellari e, perché no, a Vittorio Sgarbi, al presidente della regione Sicilia Lombardo ed anche allo scienziato Zichicchi. Il mercato, generatore di benessere per tutti. Ai tanti new liberal di ultima fattura, che specie nel nostro paese hanno fatto il lavaggio del cervello, proponendo la soluzione taumaturgica della legge di mercato che, alla fine, toglie al povero per dare al ricco. A chi si avvinghia al potere attraverso la corruzione e l'inganno, mettendo a tacere il dissenso. Sembra calzare perfettamente per i tanti, troppi regimi che proliferano sul nostro globo, ma una certa aderenza con la situazione italiana non fa certo difetto. La speranza di molti, anche se non di tutti, è che alle parole possano seguire i fatti. Non è facile, ma forse nemmeno impossibile. Che questa nuova speranza non appassisca ancora prima di sbocciare e che Dio illumini e protegga il presidente Obama e tutti coloro che sono realmente animati di buona volontà. Rosario. Premessa la mia convinzione che Hamas sia la più grossa sciagura che poteva capitare ai palestinesi, ed è triste che si tratti di una sciagura in buona misura voluta, anche se non credo a responsabilità di un intero popolo per il voto espresso da una maggioranza, per il semplice fatto che la mia attenzione si concentra sugli individui, unico referente reale e concreto. Premesso altresì il sacrosanto diritto di Israele di rispondere alle minacce che su di lui incombono e l'orrore che istintivamente suscitano le posizioni antisemite di numerose forze politiche e componenti culturali del mondo arabo. Mi chiedo non di meno come sia possibile continuare a liquidare le gravi violazioni commesse da Israele nell'ultimissimo conflitto nella striscia di Gaza, con l'argomento generico, generalizzante e chiaramente inadatto a giustificare simili atrocità nella loro interezza, secondo il quale, in fondo, la colpa sarebbe quasi o tutta di Hamas, che ha usato i civili come scudi. Antonio. Da giorni cerco di comprendere il mio disagio di fronte a questa guerra tra palestinesi e israeliani. Da una parte non posso che riconoscere il diritto di una nazione che, continuamente martoriata da missili, cerca di difendere con tutti i mezzi i suoi cittadini. E dall'altra non posso far meno di piangere per tutti quei morti che, prima che palestinesi, sono pur sempre uomini. Voglio sottolineare questa parola uomini. Troppo spesso sento tirare in ballo la difesa della civiltà occidentale come giustificazione al ricorso degli stati alle armi, dimenticando, nella maggiore delle ipotesi, o ignorando nella peggiore, che è stata prima di tutte la nostra civiltà occidentale a porre come suo fondamento l'uguaglianza e il rispetto delle vite umane, a prescindere dall'appartenenza ad una classe, ad un popolo o ad una razza. Il cristianesimo in questo ha svolto un ruolo fondamentale. Ha diffuso un messaggio universalistico rivolto agli individui di tutti i popoli della terra, e già questo dopo il crollo della Torre di Babele era notevole, ma soprattutto ci ha messo di fronte, come cristiani, alla nostra responsabilità di individui liberi di determinare la nostra storia e la nostra salvezza. In due parole, ci ha detto siete uguali e siete liberi. Ora, se questi sono i fondamenti della mia cultura, come faccio a non incazzarmi se milioni di persone muoiono perché ebree e allo stesso tempo altre migliaia muoiono perché palestinesi? Sono uomini che muoiono per un nome. Ebreo, palestinese. Parole che in alcuni istanti della storia equivalgono a una condanna a morte senza giudizio e senza scelta. Gli americani uccidono i tedeschi uccidono gli ebrei, i comunisti uccidono i fascisti. Poi però tutti alla fine scrivono sulle loro tombe i loro veri nomi e vengono pianti dai loro soli cari. Correggetemi se sbaglio, ma ho come l'impressione che nella nostra cultura, fortunatamente nichilista, si stia cercando di ricostruire una forma di ideologia post-nazionalistica di appartenenza, un occidentalismo che per difendere deve andare contro i valori dell'Occidente. Questa situazione è in fondo il dramma esistenziale postmoderno che sta torturando molte coscienze. Da una parte c'è la nostra appartenenza occidentalistica e dall'altra il rispetto della vita per tutte le vite, che è il fondamento stesso dell'Occidente. Paolo. Gli ascoltatori filo-israeliani giustificano il massacro che è costato la vita a 1.300 persone in 20 giorni con i lanci di missili Qassam sul sud di Israele, che in 8 anni credo abbiano fatto meno di 10 vittime. Ora, se è vero che le cifre non dicono tutto, credo che qualcosa ancora significhino, specialmente in queste proporzioni. Continuare acriticamente a difendere le azioni israeliane non penso possa portare qualche contributo alla pace. Costoro continuano a ripetere che Israele vuole la pace, ma un conto sono le parole e un conto i fatti. Da quando nel 2000 è cominciata la seconda intifada, sono morti 6 volte più palestinesi che israeliani e la sproporzione è aumentata da quando i gruppi armati palestinesi hanno abbandonato gli attacchi kamikaze in Israele. Se uno Stato si ammanta di superiorità morale rispetto a un movimento terrorista, dovrebbe almeno cercare di non commettere crimini di guerra, non bombardare l'ONU o la stampa. Una scrittrice statunitense di origine ebraica sostiene che Israele ha porto l'altra guancia per 8 anni. Chi sostiene tesi di questo genere non è poi molto diverso da Hamas, poiché piega la verità ai fini propagandistici. Il 91% degli israeliani ha sostenuto questa guerra e sabato scorso, sul confine con la Striscia, c'erano centinaia di israeliani andati là per osservare la guerra. Questo per dire che a volte separare le responsabilità di un governo da quelle dei suoi cittadini è un po' difficile. Andrea. Sulla guerra di Gaza, penso che valutare le ragioni e i torti, utilizzando come metro di valutazione il numero dei morti delle due parti, sia profondamente sbagliato. Gli stessi abitanti di Gaza affermano che il numero dei morti è stato gonfiato da Hamas, che negli ospedali non c'è quel pienone e che i numeri gridati da Hamas farebbero supporre. Hamas non si è fatta scrupolo di utilizzare ospedali, ambulanze, scuole come scudo per provocare la reazione israeliana. È ovvio che Israele non consideri interlocutore accettabile l'ONU, che prende per oro colato senza alcuna verifica i numeri di Hamas. Luciano Barletta. Ultimamente in Italia la classe intellettuale ha fatto proprio l'assunto pena di morte uguale ammazzare. Secondo me non dovrebbe essere così. Non fa nemmeno parte della nostra storia giudaico-cristiana. È solo una deriva di questi ultimi tempi. 3.300 anni fa Mosè ha portato il comandamento non ammazzare. Ma in tutti questi secoli gli ebrei non hanno mai abolito la pena di morte. Anzi, è sempre stata legittimata a sostegno di tale comandamento. Gesù, oltre a confermare il non ammazzare, ha aggiunto anche porgi l'altra guancia, eppure nemmeno lui ha abolito la pena di morte istituzionale, tanto è che né i padri della Chiesa né alcun papa si sono mai permessi di metterla in discussione o abolirla per i casi estremi. Il fatto è che non dovrebbe mai più essere usata impropriamente, cioè per nessun altro motivo che non sia quello di salvaguardare i diritti umani fondamentali. La filosofia che attualmente indirizza la nostra giustizia nazionale si basa per lo più su sentimenti di perdono, pentitismo, perdonismo. Forse è giusto così? Molti affermano che abbiamo una giustizia che fa acqua da tutte le parti proprio perché mancano i capisaldi della proporzionalità e di certezza della pena. Forse l'individuo dovrebbe perdonare come ci ha insegnato Gesù, mentre lo Stato dovrebbe tutelare con coerenza l'individuo, oppure dovrebbe perdonare anche l'istituzione. Hanno uno stesso ruolo individuo e istituzioni? Quale potrebbe essere allora una pena congrua, prevista a priori per un tizio che deliberatamente entrasse in una scuola per far strage di bambini? Oppure per un dittatore che facesse ammazzare migliaia o milioni di esseri umani. E nel caso fosse la pena di morte, sarebbe meglio poi eventualmente applicarla, oppure sarebbe meglio derogare? Moltissimi cittadini italiani avvertono che c'è una stortura nel concetto pena di morte uguale ammazzare. Gian Attilio. Solo un padano, nel senso di uomo di terra come Maroni, può credere davvero che Gheddafi sia in grado, anche volendolo, di fermare la grande migrazione che passa dalla Libia per arrivare in Italia e in Europa. Chiunque abbia una certa esperienza di mare, io da giovane ho fatto l'ufficiale sui mercantili per alcuni anni, sa benissimo che su un tratto di costa semidesertica di migliaia di chilometri, abitato per lo più da pescatori, È praticamente impossibile impedire di prendere il largo a una miriade di piccole imbarcazioni e ancor meno individuarle una volta in mare. Spesso quelle barche partono di notte e le più piccole sono anche non radarabili perché basse sul mare. Insomma, da parte dell'Italia è come se si chiedesse alla Libia di fermare il libeccio o lo scirocco che provengono, appunto, da quelle sponde. Ridicolo. Giorgio Maria. Mia figlia, ora ventenne, 2 anni fa è stata per 11 mesi a Caracas durante il liceo. Lei voleva fare questo e noi l'abbiamo appoggiata. Esperienza credo fondamentale nella sua breve vita. Focalizzo solo una problematicità. Il rientro è stato molto faticoso per lei. È stato sufficiente un solo insegnante del liceo che pretendesse l'impossibile e abbiamo avuto un anno scolastico molto faticoso. Caracas, città violenta per eccellenza, non ci ha dato alcuna preoccupazione. Siamo più preoccupati quando a Bologna va al cinema in periferia da sola. Una curiosità, non ci ha mai telefonato in 11 mesi. Lei ha preferito comunicare con noi in altro modo. Cristina. Caro direttore, a questa crisi economica non esistono soluzioni possibili da parte dei governi. La corsa a spostare le fabbriche in Cina o in altri paesi emergenti comporta anche la drastica riduzione di ricchezza prodotta nelle nostre economie. Drastica riduzione delle persone che continuano a lavorare. Solo invertendo la tendenza sarà possibile far tornare a fiorire i consumi. La sinistra non ha mai capito che prima di ridistribuire la ricchezza ci si deve preoccupare di produrla. E infatti tutte le economie comuniste sono fallite. La Cina sta rinascendo e ci sta schiacciando grazie a potentissime iniezioni di capitalismo. Marco. Caro Marco, i suoi giudizi sono molto drastici. Innanzitutto, che cosa possono fare i governi contro la crisi? Molto, ma non certo tutto. Ma hanno un compito fondamentale: creare uno scenario di trasparenza e di certezza delle regole che possano aiutare i mercati a funzionare. Quanto alle fabbriche in Cina, lei stesso dice che proprio la Cina ha fatto grandi passi in avanti grazie all'apertura alle regole del mercato. Vede Marco, molte aziende italiane hanno delocalizzato alcune produzioni. Lo hanno fatto per restare competitive avvicinando la produzione ai mercati e mantenendo in Italia centri di ricerca e progettazione, uffici marketing e per la distribuzione. Sono scelte che vanno prese con attenzione, cercando soprattutto di cavalcare le opportunità. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.